mazzuca russo qua. Mi so, guarda. Tony! Attento, Tony! Non c'è nessuno, manco qua. Non c'è più un'anima, oggi. Non c'è più un'anima. Adesso la gente esce, se ne approfitta. Andare al mare. Via Manuè, hai speso soldi per niente. Mia, già la faccio. Ah, tu la come, tu la come. Ah, vedi, almeno lo te l'avresti venduto. Io lo volevo uno, tu non volevo voluto dare e via. Non ce l'ho più venduto, fa 2 settimane ci ho venduto anche questo che sto usando. Cosa hai venduto, non di Fauli? Ti ho detto di non sniffare il Viagra, che non si sniffa il Viagra, tu ti cresce il naso. Oh già, vai tranquillo, che ho venduto. L'ho venduto. Ma tu chi ci vuoi? Fra 2 settimane, anche prima ho venduto anche questo. Vabbè, meglio per te. Quanto l'hai venduto quello là? 180, te l'ho detto. 180? Oh. E che è un bollo che tira biglietti? Che è un bollo? E gente che le piaceva. Che su internet ritrovi 104, 106, massimo 110, proprio andando male. Dipende come sono però, bisogna vedere come sono. Quali al tuo sono? Funzionanti, perfetti, c'è scritto senza nemmeno un graffio. Perfetti, mica quello lì non è che c'è un apparecchio top, mi. Così. Già lo so, non ho una radio top, però già è bellina, dai. Non è il massimo, però già è bella. E vabbè, io già non ne ho bisogno, radio ne ho, non c'è problema. Ma ritiratela l'altra, fatela. Non lo so. No, non penso che l'abbia ritirata, mi pare che in parte l'ha aggiustata, manca un componente che sta arrivando. Perché l'avevo sentito, ieri mi sembra, Fabio Mastre, dice che infatti doveva aspettare questo componente qua e gli mancava quel pezzo lì per finirla. Qui strada è fatta. Due cazzati ci ho voluto. Ma lo sai com'è, cos'è ho già. Quando la gente non sa dove mettere le mani, quello è il problema. Aggiustano un pezzo e rompono l'altro. Il bello non hanno aggiustato né uno né l'altro, l'hanno aggabbata. No, hanno girato prima perché non dovevano girare, hai toccato le tensioni, tutto quanto da rimettere a posto era. Tutto da rimettere a posto. Sono contento che riesci a ripararla. Sono contento perché era un peccato di radio. Nopolone che brutto, vabbè lì. La manopola di là, perché si è andato il cazzo di Lanauta, c'è una manopola. Ma mi sembra che le vendono pure, se cerca su internet ci sono anche le manopole. Qui non penso. Comunque, in ogni caso. Ma girano bene i canali? Io l'ho provato, giravano, poi non lo so, io l'ho provato così, ho già acceso così, i canali, la frequenza girava bene, però non lo so adesso cosa... Vabbè, interessante che girino i canali, la buia, se ti m'affondi, cioè va bene lo stesso. Basta verniciarla perché è un po' cromata e un po' nera, a me se così fatti così non mi piace. Bisogna toglierla, farla nera, nera opaca, con la vernice per plastica. Ci vuole pittura per plastica, ci vuole un'altra pittura, si stacca. Ma l'avrei cambiata quella manopola, perché in teoria la manopola originale va dentro la mascherina. Invece quella lì è fuori e quando giravi i canali sfregava nella mascherina. Ecco. E vabbè. sono un po', diciamo, fatte a rimbrancio, magari qualcuno che lo vende, qualcuno che ce l'ha rotto, che lo vende per pezzi, conviene, te lo avventiro per dire, tipo i pezzi che ti servono. Ho visto sul gruppo che stavano vendendo le mascherine da fare, quelle frontale, a 45 euro, pensato? Con l'apparato? E le mascherine della radio, dell'apparato, che c'è tutto il display, no? Ho capito. Ah, va bene, gente che ne approfitta, lì non fa manco a entrarci perché stanno vedendo il garage 380 euro, 400 euro, ma se va pure il Petrus che non c'ha manco, non ha manco il coso, il frequenzimetro, è uguale al garage, copiato dal garage ma non c'ha frequenzimetro. Già l'ho visto, quello dorato, già l'ho visto, fa entrare il fischio già. Avanti il fischio, fischio senza fischio, avanti. Fischio, perché ti ho fatto le tappe? Carità. Che lo sapevo, a me non mi butti di... Ma la prossima volta se non andrà a fare il culo. Futti duda. No, già, la prossima volta se non andrà a fare il culo direttamente. Non avrei aspettato, è il campanello di casa sua, Sì, a diarrea, e a cusi, se vuole supporto per culo. Ui, questa gente che non sa cosa fare proprio. Ah, uno si piglia l'apparecchio. Vabbè, non avrà manco concessione questo qua, non paga manco concessione, quindi non gli costa nulla. Ma chi lo si compra un apparecchio per fare queste cose è proprio mente cazzo. Appunto, cosa lo compare se la fa? Ma pure a patrugliarsi, o fare i cibini luci. Io non avevo preso di una faccia così. Ma la gente è mente cazzo, si accontenta di queste cose, capito? Fa queste cose qua, non ragiona. Sì, ma già mi è niente già. Alla gara. Come va, se non ci ha dormito la oggia? Se si è detto in testa di usare quella adesso. E io perché li faccio girare tutti io? Fra poco ne accendo un altro e tu manco di una bici. Sì, siamo in abito, tranquillo, come in abito. Vabbè. Alla gara. Via. Comunque mi confermi che c'è bene, questa mia è ora 1, 2, 3, guarda, parlando così va male o va meglio così, guarda, parlando di sbiecco o davanti? Non cambia niente, è uguale, cioè, la modulazione è sempre perfetta, Cava cava, contento per te. Sono contento per te, non per me. Per te che mi ascolti bene. Cazzo, se non ti entra da te hai che ti metti. Registrami, io voglio sentire come esco. Registrami, fa bene il filmattino col tuo apparecchietto. Aspetta un attimo. Sto qui no. Dana di fate male. Beh, già. K-K-pa. Mi aspettando a Maria che venga, dai, ce la vediamo, usciamo. Stasera andiamo a vedere degli amici che sono la chitarra in spagnolo. E dove sono? La perla? Via. Che sta a fiume. Bravo. Ho capito. Perché ieri non siamo usciti, da. Oggi ci tocca, domani al mare, presto. Questo è no, però una cosa dell'altra, preparare da mangiare, poi usciamo, andiamo al mare. Va bene. No, io sono uscito stamattina, sono andato da Bricco, c'era una fila astronomica, finta in fondo, tornia via, devo prendere uno svitolo e un altro... come si chiama? Vabbè. Due cazzate comunque e devo fare quella fila di a giuvatruire e era giù tutti da tutti. Sempre con la mascherina, no? Carita. Adesivo, non mi veniva il nome. Ah, di adesivo, quello capito. Ho trovato un mio adesivo che se tu attacchi l'apparato con la... col coso, cazzo, non riesci più a staccarlo, ti si piega la cosa, però non riesci a staccarlo. Forse mi stai ascoltando, sì? Sì. Microfono normale, già. Sì. Il secondo signor sì. Mi stai ascoltando bene, sì? Sì, ok, dai, perché la frequenza, sì, ho girato i canali, canale 11, sì, poi me la tali, sì. Non dice solo sì, anche l'altra parola. Che bazzata. Io sì. Guardi, una bacchia di una c'è zappata, mamma mia, c'è un'altra di ballo. Vabbè. Devi odorare la menta, tu si legge un po' carino, di menta l'odore. La menta? E le foglie della menta. Ma che sono lo straccia? C'è anche quello che si mette nel petto. Quella pomata. X Vapor. Yep. Che io ce l'ho di quando ero bambino. No, io l'avevo presa l'anno scorso, due anni fa. Sono come ho messo una volta, ma mi ha scombussolato. No, l'avevo preso per Marcolino quando era piccolo e ci è rimasta qua a casa. Adesso Marco ha 19 anni. Oh yeah! Grazie, 19 anni vicino a te, beh, te può passare per lui, ti invecchi, eh. Non sei contento? Vabbè, sì, certo che sono contento. È normale che debba crescere il ragazzo, non è che... Però sono volati questi anni, capito? Lo so. Purtroppo vanno per tutti. Ma se non c'è uno di 22, ho già. Di 2? Il maschio sì, 22. La donna 20, era più piccola 14. Che ne hai, 2? Due femmine e un maschio. Aspetta, è il prolifico. E là ne passano. Come se passano? Pagava. E adesso ce li hai lontani, che ci vai a trovarli o no? Adesso se riesco, sì. Se riesco a andare a rotto, sì. Cappa, va bene. Sono usciato 23 anni che vivo. E loro non si muovono da lì? Sì, mio figlio, allora, l'anno scorso mio figlio è venuto con gli amici suoi e se ne è andato in campeggio a Valle d'Uria. Ci hanno preso una casa, ci sono stati una settimana. Ah, è venuta a trovarti, sì? Sì, l'altra è che sono un po' che non la vedo. Grande o la piccola? Sì, la seconda, ha 19 anni. Vabbè, muoviti tu. Mantieni un rapporto con i figli, che è bello, dai. Lo so, già che è bello. Ce n'è una lontana, lo stesso. Io non ce n'è una che è a Bologna. Sì, lontana, è meglio, c'è vicino. Insomma, vicino. Non è quasi, non è a due passi, eh. Già lo so che non è a due passi, lo so, quanti chilometri mi facevo io pure. Ma non è a Bologna, però già viene lì qua, io non ci parlo. Perché è come tipo Lugani, così tutto, non posso lasciare la casa sola. Tu no, perché per forza devi stare lì, a meno che non te lo tiene qualcuno. Proprio. No, non lo lascia nessuno il ca. Vedi, quello è il problema, ti tiene legato in casa. Sì, l'ho troppo sbranato. Mamma mia, a zigliare di mobolo quando siamo usciti chiari. Ma è bello, che cazzo ho visto a Tonino? A Tonino non lo conosceva, ti aveva fatto subito le feste. Sì, perché a Tonino sento l'odore del cane. Oggi è vero, le feste le ha fatto subito, come è venuto, ho cominciato la fiancata, poi si è messo a fare le feste. Va a perdere, va. Ma chi su, che è giunto a farmi una fisioterapia. Faccio un bacio a un'altra. E mi ha detto, oh, il cane è uscito fuori. No, non si preoccupi, non le fa niente che ci sono io. E chi si è andato a toccarlo? Io ho detto, non le fa niente, ma non lo tocca. Cazzo, sei andato a toccarlo? E chi dice, oh, cazzo, ho fatto il tempo a prenderlo per il collare, se no li saltava a dopo. Cazzo, già ti cosciamo a pagare l'altro. Se lo teme un bel, lo devo chiudere in cucina quando verrà a fare fisioterapia. lo teme un bel. Il cane dove già è chiuso, sì, già è chiuso, aspetta ruina, dove presente fantuzzi, che c'era Edo? Sì, ve lo posso immaginare, ve lo posso immaginare. Grazie. Via. Si stai facendo bello per Marina? Sì, ma bello me. No. Chiamami questo alla solita maniera, dai. Di sabato metto la camicia. Perché giorno di uscita, dai. Ma escono di più il venerdì che il sabato, eh. Lo so, ma lì volevo uscire oggi perché c'è questo gruppo. Poi sicuramente la prossima settimana usciamo. Perché uscire il venerdì, uscire di sabato, ti stai di là, E di là ho finito. E infatti, è vero. E a che ora suona questo gruppo? Alle 9. Quale si commuove? Va bene, dai. Alle 9. Oia. Oh, sto pensando se comprarmi la bici elettrica. Cazzo, è utile. Costa molto però. E poi se ti si carica già la batteria lui. Ah vabbè, ma te ti fai ciò che ti fa, mica se si va alla righiera la posso d'ora. In città. Città già è utile. C'è anche il monopattino, c'è uno vicino a casa che c'è uno di quei monopattini che sta in piedi, no? E mi ha spiegato come funziona. Se tu vai verso avanti, il monopattino va avanti, cammina dritto. Se tu ti spingi per indietro, fa retromarcia e poi di lato devi muovere col corpo e basta, capito? Ma quelli che hanno due ruote, ti metti in piedi sopra? Ah, va, mi piace questo. Mette anche le borse lì, lui si prende le borse della spesa, non si prende da nessuna parte, se ci appaga che voi si ributta la ruda, lui ci trancare. Si tocca un gutto. Non ci può mettere manco le mani, perché prende le borse della spesa con le mani? È l'unica bicicletta, se vediamo. C'è una bicicletta, una tipa me la stava vendendo, no, non una batteria, è una... È una 20 pieghevole, infatti dobbiamo comprarne due, una per noi, una per lì, poi ce la carichiamo in cofano, quando scendiamo ad Alghero, vabbè cosa là, troppo bello. E lì, ma tanto lo usiamo ogni volta ogni tanto, vabbè cosa c'entra? E ci facciamo una passeggiata e ci facciamo una pedalata. Infatti, ti dà l'aiuto e salita al motorino. No, senza essere motorizzata, capito già. Normale, a pagare con le macchie però, Questa tipa me la stava vendendo, 90 euro la stava dando, tutto va bene. Ma se me la vendi, tutto d'accordo, poi manda un messaggio e mi fa che aveva già venduto e mi ha anche bloccato, brutta troiaga. Ma per te è piccola lì, ci vuole una 26 o una 28 per te. No, già va bene. Io ho visto gente alta come me, va benissimo, pieghevole, mi sei pieghevole, la mette in cofano. Ho capito, però è come la graziella. Più o meno sì, io mi va bene a me a Puglia, mi avanza a buro. Io sono da mio padre, c'è la 28, però non lo so se adesso sono diverse come numerazione. Mio padre c'è la 28 e io c'avevo la 24 quando ero ragazzo. E poi avevo preso la 26, però la 28 è per la mia altezza. Comunque già vanno bene, già quelle vanno benissimo, la grande tutta Michael. No, tipo la Graziella, con le marce, con il cambio. Sì, cambio Shimano, sì. Ah, a fare, l'ho vista su internet, 100 uguale identica, questa qua è la nuova, c'è ancora la pellicola sopra i parafanghi, 180 euro mi sa, e 90 euro non a fare. Io l'avrei anche presa, ma non ci ho posto a metterla, tu c'è quello sgabuzzino, ma dove me l'avrei? Già, io la posso mettere anche a casa, cosa entra? La posso mettere con lo sgabuzzino, la piego e la metto sopra la moto, c'ho ancora la moto io. Ma la stai usando? No? Ogni tanto, ma è tutta assicurazione, già. È un indibata, regalo questa moto la vuole, 200 euro. Ma attento gli assicurati ghetti, non è che mi chiede il pane o l'acqua. Rimane lì finché campa, e poi non si mi piace a rampo a Gascione. pagava. Vabbè. Ma non te l'avevamo sequestrata quella lì? No, quella l'avevamo rubata la sequestrata, ma l'ho rubata però. E allora adesso come fai? Hai denunciato che te l'hanno rubata? Carissimo. Vabbè, avanti. Ginko. Via, 8, 1, 8, 8, simulazione, mondo. Sono come una macchina adesso, pare che la simulazione è come una macchina, forse era qualcosa di più. La macchina te la devi prendere? No, ma per il momento mi interessa di avere la macchina. Se riesco mi prendo una moto, non scuoterò la macchina. Venduto da poco, un Suzuki 400, nuovo nuovo. Scuoterò? Yeah. 400, ma cos'è la della... Era quella, ma come si chiama? Del 2000 era l'anno. 2007. Sempre nuovo è da allora. Dillo a Luca com'era. Tenuto maniacalmente, tutto bello coperto quando l'ho fermato. No, non entrava né acqua né nulla, d'inverno lo usavo poco, ma era ben coperto. Infatti cosa facevano i gatti? Se ne andavano sotto per coprirsi, se ne entravano sotto il telone. Infatti quando l'ho scoperto aveva un fiago di biscio, questa volta si può dire, e allora comunque si dire l'ho tutto bello coperto, di modo che se loro vanno a farsi gli artigli no, non toccavano la pelle, capito? E niente, quando l'ho scoperto c'era la puzza di gatto, mamma mia, gli ho fatto un lavaggio allucinante, come sa che profumo. Ma non è al garage, io già. Ho posto macchina, la mettevo davanti alla macchina mia. Vedi, lì ci voleva un garage, quella zona lì, ma la giusti. No, stai sbagliando. La zona di casa è tranquilla, la zona di sua è come dici tu. Sì, la zona di su, e te che mi vuoi fare ci sei tu, la zona di su. Sono stanziali, perché spacciano, quindi non si muovono da lì. Sì, già si muove, tu è che non li vedi, ma già si muove, che mi muovi. E là che vede, io non ne ho carità, vede. E per questo si muovono, vanno in città, girano, se li vedono a qualcosa di interesse se la prendono. Non vuol dire, allora se sei anche alla Tenoce, cazzo, dove sei tu, a Santa Maria di Pisa non se ne va veda, ti dovranno pensare i mutanti se ti vedi. Noi siamo al Bronx, cioè, zona Bronx, cazzo hanno paura anche i carabinieri a scendere giù. Allora che lo so, io facevo servizio ambulanza e una volta ce l'ho chiamato i carabinieri, hanno segnalato qualcosa di strano, sangue, boh, non so cosa. Venite con l'ambulanza ma aspettate a noi, ci hanno detto. Perché l'ultima volta ci hanno tirato lo scaldabagno sulla macchina. E mi hanno voluto bene. A lui, ai carabinieri. Sì, e quando è successo... che ci stavano azzuffando al bar, non so se te lo ricordi, che c'era quella risa, che sono venute due pattuglie di carabinieri, sono entrati dentro e hanno rubato la macchina con le mitragliette e l'hanno trovata a Sant'Orso, buttata la macchina senza mitragliette. Me lo ricordo che c'era stato un particolare del genere, che hanno rubato, ma loro le mitragliette in macchina non le possono lasciare, devono portarsela appresso, oppure chiuderlo la macchina, non le hanno custodite. Appunto, se sono scelte fuori, non ce l'ha, le macchine e le mitragliette, l'hanno trovata, mi sembra, dopo due giorni. Ci hanno rubato sia la radio, le mitragliette, mi sembra i cinturini, quelle cose, il maganello c'era. Tanto sono cose che trovano pugni alla fine. Non so se li hanno trovato, non lo so, sinceramente non lo so. La volta che gli hanno buttato lo scaldabagno sulla capotare che c'è della macchina. Gli hanno grido quella che c'è la macchina. E guarda, erano staccato lo scaldabagno per tirarlo sopra la capote. E la volta, quella volta lì che ci hanno chiamato, sono arrivati prima i carabinieri, poi c'erano più di 100 persone, c'era anche gente che io conoscevo, c'era una pozza di sangue enorme, piatta di Turi. E ho chiesto a questo che conoscevo cosa è successo. Ah buh, non lo so già, non lo so cosa sia successo. Infatti Kibi, Edwin Kibi non sappia cosa è successo, non gli dite nulla. E niente. Sentiamo questo urlo, saliamo correndo su e c'era questa signora che si è sentita male, ma perché? Perché aveva visto la scena. Questo qua ha tirato un cantone in mano, un gatto alla zuzzera, l'ha impaccato tutto il gabu. Poi l'ha portata alle scale, abbiamo trovato tutte le tracce del sangue, siamo saliti su e questo qua stava girando contro i carabinieri, aprite la porta, ha preso la iena e si è di contro i carabinieri, lì c'è tutta bella di sangue. Noi dovevamo cercare di prendere lì perché stava un bel male, perché c'era ogni drappa in campo. Siamo così, anzi, si sono calmati in quella zona lì. Siamo calmati, anche prima era peggio, era peggio, ogni arrivo era uno che cazzo pure la macchina, il fuoco, campe, di tutto. Ma quella, quell'abitudine c'è anche su dalle parti di casa, ma tra loro, capito? Ma che cazzo, perché non c'hanno niente da perdere, fanno quelle cose lì perché non ne fanno un cazzo. Se la prestano, tanto dopo di due lì sotto la fuga. Avevano trovato uno vicino a casa, ci aveva tutto l'elenco delle macchine da bruciare, se le pennava man mano che le bruciava. Figurati. Aspetta un attimo già, che le mando un attimo a quelli. Attimo. E a Luca, avanti. Avanti Luca, cambi. E mi sono sbagliato di qua. Sei fuso? No. Stavo leggendo già. Stavo leggendo un messaggio. Ah, cavaga. Ohia. Ma l'ho riattaccato l'apparecchio, ma non ne vendo più, si abita di luci tutti canti. E uno 200 e l'altro in scambio con quello, basta, non ne dico più. Ecco, non ho capito. Aspetta, questo apparecchio. Chi mi ha telefonato che mi voleva dare 200 euro? 200 euro, io ho messo 350 perché mi dice 200. E questo è quello. E vabbè, ma mi puoi fare qualcosa di meno, perché non ce li ho, questo e quell'altro. Se non ce li conservi, poi quando ce li hai lo prendi, se ti interessa, se no non c'è problema. E niente, un altro voleva fare scambio con un altro apparecchio, che non mi ha fatto via nulla. Un Connex, due sono partito, 2004, ho detto che non mi interessava, ecco come, se ne me ne fosse. Sì, non è niente strano, ma per carità, ma il mio lo stesso, se lo vendo lo vendo quanto l'ho pagato, di mano non lo do, il mio funziona bene. Quando ci stava Fabio sono una più difettata, è perfetto, ma veramente perfetto. Perché questo funziona benissimo, non ha mai fatto difetti. Chi su va? 200 c'ha 7 bande. Ehi. No, questo qua è normale, c'ha 120 canali, basta. Non è che sia un apparecchio super, ma esce bene, dai. Se lo devi mettere in camera la macchina, questo qui è una bomboletta. E beh, vediamo che so già esce bene. E poi è anche bello il disegno che c'ha sopra. Ma a casa c'è, se tu lo metti a 350, la gente ti spara 200 euro proprio, sono approfittatori. Sopra e sotto ce l'ha il disegno, Luca, è davanti. Ma dico, ma la differenza, capisco, ma di 50 euro in meno, vaffanculo, ma c'è 50 euro in meno. Bah, per carità. Allora lui, io l'ho pagato 4,50, lo stavano a 100 euro in meno per togliermelo fuori, invece a quanto pare la gente non riesce a capire queste cose, che per fare le modifiche ci vogliono un bel dinamico. Ma questo lo si danno adesso? Via. Oggi capito, va bene comunque, no? No, io non lo prenderei mai per casa, è un 48, no, mai, poi mai. In macchina, un furgone, così, per casa mai. Io l'avevo preso per la macchina, Luca. Solo che poi la macchina l'ho venuta, Luca l'aveva lasciato attaccato. Sai, prego. Beh, te credo. lasciato solo il motovolante là perché tu mi avevi fatto quella rete nella lamiera a casa di Agassino. Ho capito già. Vi ho lasciato solo quel mozzo dell'antenna, perché sotto era rovinata la lamiera, tutto quanto, se lo toglievo si vedeva tutto. Ah, vabbè, certo. Ah, l'ho veduta poco, mi l'ho veduta un amico che faceva bombe di strada per andare a prendere il pullman da via Milano, dove abita Claudio lì, lui abita a San Simplicio. Andava sino a prendere il pullman dopo la stazione e poi la sera quando tornava tardi da servizio, perché lui lavora a Portottone con le ambulanze, quando finiva il servizio la sera riprendeva il pullman e lo portava lì dove andassero a piedi di nuovo a casa sua, riesce a laggano di lui. Capito. Vabbè. E poi la rifinata, cioè c'era quel tipo che guidava l'ambulanza. Poi quando l'ha venuta una che lavora al Polo Sesto, se l'ha cambiata la macchina e l'ha venuta uno che lavora, una ragazza che lavora al Polo Sesto. Ho capito. Magazzino FND Marina, FND Stretching. Oh, tu pensa a quella macchina, il giro che ha fatto dopo di me. In poco tempo quel mio amico che l'ho venduta non ce l'ha fatta a pagarsi l'assicurazione perché era 1200 euro l'assicurazione. Era la prima che faceva, quindi gli veniva un bene, non ce la faceva a pagarsi. Allora l'ha venduta e se l'ha venduta mi pare 500 euro. L'ha venduta con la ragazza di Baldetti. Quindi io questa macchina che ha fatto, ma ancora la marciante? Sì, passa sotto casa, c'era una ragazza. Una ragazza? Sì. Non ho capito. Ci aveva 350.000 chilometri quando gliel'ho data io. 350.000 chilometri lui. Mai rifatto nulla, né frizione, né motore. Camminava come il primo giorno che l'ho comprato. Eh beh, certo, se ne va che le tratti bene, calmo. Poi tu la tenevi conto, sempre pulita. Cioè, per dire la mia, me l'ho lavata. Ha fatto quell'acqua sporca e me l'ha risporcata. L'ho riportata a lavare, il giorno dopo ha fatto quell'acqua sporca e me l'ha tolta imbruttata. Eh beh, ti credo. Ecco perché mi incazzo, ho speso 5 euro per lavarla. Non tu mi dire, non sono tante, però 5 euro qua, 5 euro là. Sono buttate perché lavate il giorno prima, il giorno dopo cate sporca. Te credo, lo so, a me lo si sente. Noi ce la laviamo, ce la spediamo in campagna quando la laviamo e poi la laviamo lì a Pedanietta. Forse dove devi andare, me la lavo non va bene, però c'ha le spatole, ma non sono spatole di quelle di nylon. Hanno fatto un tipo di spatole che sono fatte come la spugna che tu usi per pulire il lavello in cucina, ce le presenti quelle spugne lì? Sono fatte a stringhe, e a stringhe lunghe sono di spugna, le ho toccate, me le ha fatte toccare, ho detto no, io non la lavo qua perché mi me la rovini. No, queste qui sono particolari, guarda, me le ha fatte vedere, cazzo, ho visto che erano di spugna, non me l'ha rigata per nulla. Beh, te credo. Ma il nuovo quello che c'è lì di fronte alla Usciana? Canica, in via Canica, dopo la motorizzazione io vado a mettere il gas lì, perché tu mi dai, perché non lo mette la Budi? Perché la Budi è un gas, un miscuglio di gas, e ti lasciano in purità, nei filtri, nelle cose, invece questo gas qua è gas puro, è propano puro, lo paghi un po' di più, però la macchina rende di più, cammina di più, e in più non ti rovina l'impianto. Però quello che hanno aperto, cioè l'hanno fatto nuovo di fronte alla Auchan, quello è uno dei più grandi della Sardegna. Fronte all'Auchan? E dove è di fronte all'Auchan? Boh, non l'ho mai visto io. Ma c'è Cisalfa, ma ci sono che ti lavi la macchina anche tu, te la puoi lavare con la pulivapo lì. Più, scendi giù e c'è il pit stop. Ah, quello sì, ho capito. Ma quello lì c'ha sempre le spatole in nylon, invece questo c'è l'ha di quelle che non ti graffiano la macchina, e quello te la fanno tutta quanta a cerchi, perché me l'ha fatto anche nell'astra, mi ha detto no, i colori pastello non li fa nulla, invece me l'ha fatta a droga. Beh, prova lì, comunque quello lì è uno dei più grandi della Sardegna. poi ti lasciavo più grandi, ovvio. Ho notato che le macchine escono lucide, belle, lucide, lucide. Ma se stanno usando ancora quel metodo, con la cosa io non ci vado, perché te le riga tutte. Quello nuovo che hanno fatto a Canica è veramente particolare, c'ha le spugne proprio, c'ha, fa solo di spugna. Già, l'hanno fatto nuovo, ti dicevo, sicuramente è uguale a quello. So, non voglio insistere perché sono da un bel che non ci vado e... No, non avevo capito che era quello lì, quello lì c'era già, solo che poi l'hanno demolito e l'hanno rifatta nuovo. Basta andare un giorno, vedi un po'. Provi, comunque l'hanno fatto nuovo, nuovo, ed è grande, grande, grande, grande, bello, sì, è noto che ci vanno tante macchine, macchine nuove già, se ci vanno vuol dire che il motivo c'è, che sicuramente non la graffia, come stai dicendo tu. C'è gente che non lo sa che te la graffia, che te la fa tutta a cerchietti. No, non credo, che cioè fanno un coso per levare le macchine e poi te la graffia, no. Basta provare, non ti costa niente. Una volta con le spazzole lì non mi hanno piegato gli specchietti, cazzo, me ne ha stracciato lo specchietto, capito? Me ne ha stracciato lo specchietto, ma non l'ho pagato. Vabbè, può succedere. Gli specchietti si devono piegare, ma nella mia non piegano, piegano solo al lato esterno, all'interno, verso l'interno no, verso l'esterno sì. Perché verso l'esterno, ti spiego, una macchina la tocca, tocca lo specchietto, invece di spaccarsi se ne va avanti. Non maghiatosi. No, certo, c'è una... la parte sinistra, la parte destra chiusa. Vabbè. Sta bene sdraiati, relax. Sono sdraiato. Ti credi me la posso fuggire? Che bello, proprio relax. È bello è quando rientri dal lavoro, cazzo, e ti rilasseggi la bu. Sì, vabbè. Che casino, gruppo. E quando torni dal lavoro se ti rilassi ti trovi, non mani ne manco. Come torno io dal lavoro stanco morto, sembravo un uncino quando scendevo dalla macchina, tutta dolore. Me lo posso immaginare. Io sono dal posto a pranzo, magno, e da voi mi piglia il cabbiocco strano, infatti me ne vado in soggiorno. E mi addormento. Ma passi di 2 minuti, però mi addormento. Che vuol dire che ha mangiato molto? Io oggi mi ho fatto la gioca, me la giù mangiata a pranzo. E c'ho le lumacchine belle le mie, poi c'ho lumache, lumacconi, ne ho uno sgabuzzino, a voglia, sanno, fare 2 o 3 mangiate. Oh, mi ho fatto una mangiata, una bella abbondante, se no se un 4 o 5 dozzere di lumache. E buonissima è già, va, poi ce ne facciamo 10 dozzere, a babba, usci a occhio. Maria, devo controllare quelle lumache, domani, lunedì me le controllo. Ma per me ce n'erano anche troppe. Poi ne ho dato un po' a mamma, ci sono lumache, qualche lumaccone. Adesso lunedì vediamo, se non ho niente da fare, ma penso di no. A lumacchine me ne vado, se no ci uscirà alle 4. Così dici? È stato vigente già, capito? La briga, vai lì e trovi un bel. Ma io vado a cercare quelle grosse, non quelle piccole. Grosse sono le lambiche giobbetti, verso il Parsi, fa tutta quella zona lì, dove c'è la comunità, lì è tutto pieno. Ci siamo andati anche lì, ma sono piccole. A me le lumacchine non mi incasciano assai, mi piace la gioca grossa. Col sughetto piccante, come l'ho fatto oggi, il piccante al punto giusto, il sale al punto giusto. Perfette sono uscite, buonissime. E te credo. No, dolci dolci pure. Buone, buone. E lo fate vicino a casa, per non dire di aggiungarti. Ha piovuto e ce n'erano un bel po', ho detto, ma che peccato lasciarlo. E me ne aggiungiamo. Chi è pregata? Alleluia. Stasera mangiamo la pizza, mi sa. Cosa? Stasera ti mangiamo la pizza. E io? Vabbè. Io non sono stufo di mangiare le pizze qua. Almeno la stavo mangiando lo spesso quando ero a casa, però me la pigliava a spesso. Ha detto, ma dato la riguarda con la pizza, noi che la puoi mangiare spesso, girami il guglione, mi dice. Se vuoi mangiare una pizza buona vai a San Gavino e comprati la pizza con la zuppa di mare. Roba buona così, non la ci fai mangiare. Ci mettono granchi, capre marine, tutto. Io l'ho mangiata la zuppa di mare, vabbè c'è una cosa di poco, lì a Blackstone, una buona ritta, buona veramente, sia la pasta, tutto, tutto buona. Blackstone le fanno buone, poi mettono anche musica, ce n'era musica? No. Davanti mettono la musica e cantano, passano il microfono e fanno cantare al karaoke. Perché mangiare solo la pizza e mandi la pizza da Budinandi, cosa fai? Non fai nulla, invece se c'è musica, ascolti, capito? È più bello. Lo so. Infatti abbiamo mangiato, bizzo. Ma già avevamo mangiato con la pizza, bella carica, arselle e cozze, ma bella carica già. Poi ho bevuto due mezzi litri di birra, non filtrata. Un po' gattuntunato, poi siamo scesi e andato all'altro posto, poi si è bevuto due creme di whisky, boh, non ci ho fatta, non ero imbriaco, però non ero in grado di guidare, infatti ho guidato Marina. Io, guarda, di birra ne resisto come, a me mi tocca il vino, la birra ne posso bere anche 6-7 bottiglie, non mi fa di nulla, ce l'ho già fatto, capito, posso... Non a me la birra non mi gocca, mi gocca il vino. A me mi gocca pure la birra. Il vino dipende che vino è, secondo che vino non mi fa mal di testa, mi inciccia. Però la birra mi fa mal di testa dopo che ne bevo adesso. Non lo so. Ma poco ne bevo fai 2-3 bottiglie, mi fa mal di testa, non lo so perché, anche se ho mangiato, io mangio prima, mi riempio proprio bene lo stomaco, mica bevo a stomaco vuoto, su macolo. Infatti l'urgenza c'è così vuol dire che è stato medicato, se no non te lo deve fare mal di testa. Il vino a me non è che mi attira tanto, dico la verità, però una volta siamo andati a Zia Furicca e c'aveva il moscatello di sorso. Già, l'ho potuto assaggiare il moscatello, vabbè, in via Arborea, non so se ci sia ancora. Ah, assaggiamo questo moscatello, cazzo, mi prende a bocca questa cosa, come sapevo il moscatello, ma gucato. Sembra così perché è dolce, non sai come ti frega, perché è molto alcolico. E mi sono comunque a fare il pappa sotto al tavolo, fratelli carissimi. E già fui, ciao, mi scendi, ti prego, te ne do altro, vai, scendi, te ne do. Siamo moscato, non moscatello, moscato. No, così no. No, bello quello finolino, è buono, sì. Lo bevi magari quando ti mangi un pezzo di dolce, un bicchierino so puoi bere, ma mica lo bevi così. Devi bere, sai qual è il vino? Quello vino che c'ha un po' di dolce, io lo bevo, sai come mi piace, ma non mi dà che va di schifo. Che abbia un po' di dolce, allora si ci scende. Ma già, io ho notato che anche la birra non filtrata, ma non filtrata, la birra non filtrata non mi fa mal di testa, la verità, però mi inciccia, invece la birra normale mi fa mal di testa. Io la prendo sempre normale, non filtrata non mi piace, ne bevo una bottiglia ma normale, mangiando la pizza la bottiglia me la faccio, però normale, non mi piace non filtrata. No, non ci prendo gusto a bella sgasata così, non mi piace. Io sì, infatti me l'ho comprata per domani per andare al mare, un paio di bottiglie me ne ho preso, un paninotto, una birrotta, un saffrigo e poi si poteva roba da mangiare. E c'è Franco, non vizi con un naso. Chi? Franco. Chi è Franco? Che è entrato Franco, avanti. Io devo scendere, e anche se non ti, la birra no. Ma bevi sempre. E allora, ci mancherebbe altro. Giusto, però, già va bene. Ciao Franco. Tu che noi siamo embriagoni, tu pensi più di noi. No, bisogna bere, non va bene. Wow, e Vermentino, quelli sono i migliori che ci sono buonissimi. Ma mi senti Franco? e il vino mi cappotta subito, invece la birra no. Ah, zitta, già. Sì, io ti sento, ok? No, ma mi senti, ciao Fra. Momento, ciao Luca. Perché l'ho squarciato prima, dai. Ah, ecco. Mi sento tutti bene. Andrà bene. Già. I vini bisogna prendere quei vini che non mettono la medicina, che la pastiglietta in mezzo, no? Per esempio lo zio di Marina so fa, e ce l'ha il vino buono, però quel vino che fa lì, quel vino lì tipo cagnolino non mi piace, no, mi ci scende, no, non è pa' bocca mia. Un po' forti sono quei vini, cagnolari un bel po'. Ma li bevi a Franco, vedo, ti piace Franco cagnolari? Io il vino lo bevo tutto. Ah, a me piace, se c'ha poco di dolce, va, lo bevo volentieri. Tu, a te piace l'amabile? No, la roba dolce a me non piace. Io bevo sempre il canonau, quello secco, è quello del migliore che c'è. Lo metto un po' in frigo, tanto per dargli un po' di fresco, è buono. Stemperarlo un po', Capo. Il vermentino bello fresco, bello tocco. Ehi, va bene, dai. Sì, allora già ti spiego, la birra non filtrata è meno gasata, ti fa pisciare meno della birra normale, capito? Invece la birra normale, dopo ti piscia un bel, invece quando sta non filtrata no, e poi ci scende, è una bellezza. Certo, se ne bevi una cassa, bastano 5-6 bottiglie ti capoteggia. E dipende, se stai mangiando quando bevi non ti capoteggia. A me sì, a me mi infatti già, mi inciccia, senza altro che noi. Perché non sono abituato, capito? Io sono abituato, io non è che c'è il vittore, ma la mangio quando vado in pizzeria con gli amici o coso. Mi bevo anche una bottiglia, me ne bevo, non mi vergogno a dirlo. Ma di vino? No, di birra. No, vabbè, di birra burruosa ventra, anche io già. Intanto sono bevuto 2 a mezzo litro, da solo. Poi ho mangiato la pizza, capito? Poi... la pizza abbiamo mangiato il giorno. E basta. Ma ho una bella pizza gigantesca. Pizza a piatto, ma bella piena. Eia. Vabbè. Interessante è che uno stia bene quando va in giro e che non si ubriachia. Interessante è quello, specialmente se sta guidando. No, vabbè, tanto se non ce la faccio già guida lei, capite? Se lo guido io. E poi lei ce l'ha preso piatto a composto, patatine fritte, insalata e calamari. E anche uno di quello ha assaggiato. Così a gustare un po', perché è arrivato prima lì il piatto, dopo a me stavo mangiando una cosa lì e già andava, da una voce ogni tanto già andava. Non ho capito come fa la gente, non c'è ogni santo giorno a spendersi i soldi, ci vuole uno stipendio. Se ti basta, avanti Fra. A me come c'ha le gambe che hanno commesso la seconda ampulla di vino. Ah, lui sì, No, a me basta un po' di dazi, inizia già. Poi, io forse secondo cosa sto mangiando me ne bevo un litro da solo. A me quando vado a casa del cugino di Liliana, alle punti che di nuoro lui, c'ha tutti i vini di usi, di risorso, della zona sua, me ne fa gustare tutti quanti, le volte mi si manda sempre io con luci impappanate. Quando comincia a gustare, quello allora è un casino. Che gusto ha questo avere com'è, dai? Che questo qui me l'ha portato il postino, per dire, di usi, per postino, lo fa lui. Poi l'altro magari è andato a Coso, nel Nuorese, e l'ha preso ad Orgali, eccetera, e lo prende lì. Quando si fa il giro, perché lui va a prendersi il pane a Carasau, tutto lì si prende. Va proprio nelle case, in una casa dove lo fanno artigianalmente, glielo vende. Ecco, vuol dire che avanti dei vini. Vabbè, hai detto della zona di nuvola, hai detto tutto. Loro il vino non è che lo sanno fare tanto bene, troppo grosso quello che fanno loro. C'erano dei migliori vini, quelli di Dorgali sono i migliori vini che ci sono, no? È un vino pastoso, non è che non lo sanno fare, però il terreno è così, lo fanno molto forte. Lo fanno, diciamo che non è che non sanno fare il vino, loro lo fanno in quel modo, gli piace a loro in quel modo. E ti macchia il bicchiere quando lo bevi? Non è così a fare un vino, però a loro piace così. Però ho visto che i inglesi vengono anche qua sotto a prendersi il vino dai proprietari qua, e ce ne sono parecchi, ce n'è uno che conosco io, ce ne sono un paio di loro che vengono sempre ogni anno a prendersi il vino. Già comprato l'uva o proprio il vino? No, il vino già fatto. E magari le piace, cosa c'entra, però i vini migliori che ci sono in Sardegna sono pochi, come si chiama, la zona di Cagliari, Sorso e del Nuorese, sono pochi. A Ierzo lo fanno buono, nel Nuorese e a Sorso, quelli sono i vini migliori che ci sono. Ma tranquillo qua, io non vino nella cantina, non so più davvero, come vedo sempre vino proprietario, perché tanto, anche se lo fai in squadra centesimi in più, però tu sai che non mi chiedi vino. La cantina li mischiano così? Quindi sai cosa fanno, magari c'è probabile. Ma poi che c'è Gorigo, avanti Gorigo. Gorigo, ecco Gorigo. Ciao Franco. Esatto, perché si mettono la medicina, già, per durare. Ciao Gingo. Gingo. Prendi fra. Di quello di Ierzo, sì, è buono. Lo prendevo io ogni giorno. Stavo lì vicino io, a Ierzo, andavo proprio alla cantina a prenderlo. Sì, quello che ho detto, anche Dorgali è buono, il vino, questa cosa lì. Io sto parlando di nuovo proprio, nuovo a nuovo, di digni non era buono. E lì lo fanno troppo grosso, lo fanno come vino, eh. Infatti il residuo della bottiglia lo colorava, tutto il residuo del vino lo colorava proprio. Vai già. A me lo c'è di gente che i miei suoceri erano di Orani e di Orottetti, però c'erano tutti i parenti a loro. Quando andavamo i cugini di mia moglie, che cazzo, mettevano il vino ogni volta, mi prendevano di andare con la nebbia, anche se non ce n'è, non devi svuotare mai il bicchiere subito sotto, lo riempiono di nuovo. Sì, già lo so, sì, non te lo lasciavano mai vuoto, lui si è attento, anche come ti tirare me la vista una piena la tazza. Che se ne bevi un sorso, no, allora te lo vedo, tu te lo bevi dopo. Sono fatti così loro, infatti sono così, non te lo lasciano mai vuoto. Oh già, fatti raccontare da Claudio quando siamo andati a Pinuccetto il Moro, lì a Budusò, mamma mia, mamma di Durchi. Butta a me. Sono andato a testare l'antenna, poi c'è, adesso non dovete rimanere qua, no? Un sardo ce l'ha detto, no, dobbiamo rientrare, no, se non rimanevamo lì ci offendeva. Allora la mamma ci ha preparato il pranzo, è iniziato a uscire il vino, infatti Claudio si era mezzo imballato. Me l'hai raccontato che c'erano tutti i prosciutti appesi e cosa, e tu gli hai detto, canta quanti prosciutti, e non si dice. E va bene. Andava, lo so. Caspita, e qui questi sono molto ospitali, capito? Il centro di patata, no? Budusò, da, riprendete voi che io mi assento. Mi prendi Franco, tu. Se vuoi la lavarmi oggi, allora vado a prepararmi. Ci sentiamo dopo, ciao. Via. Ciao, Luca. Buon lavoro. Avanti, già. Stamattina ero con Marco tutta la mattina, ce ne siamo andati a fare un po' di commissioni insieme, ci ha fatto la spesa, lui poi l'abbiamo portato a casa e se siamo andati a farci un po' di commissione. Tanto faccio la passo la mattina insieme. Va bene. Almeno ci svaga un po'. Vabbè, lo so. È un casino. La missione che gli date di lui. Lo so, purtroppo è così. Dunque una cosa già. Che colore è quella capsula che di quel telefono? È un telefono bianco, ho trovato io, no? È in una casa di mio cognato che la casa sta là, e dalle inquilini vecchie che c'erano prima, cioè dai proprietari che c'erano prima, e c'era un telefono, ho tolto una capsula, che colore era quello che deve avere? Verde. Ah, verde. È un marroncino. Ma quelle lì vanno, allora sono quelle verdi, sono le migliori, sono di citofo, quelle del Sirio sono marroncine. Esatto, ma sono buone quelle. Sì, sono pizze elettriche. Infatti l'ho vista e l'ho tolta, mi aveva detto, siccome c'ho questo qua il microfono, l'MDP5, che voglio metterla lì, quella capsula. Fra, si prova, io so che andavano bene quelle lì. Sono del telefono Sirio, vanno bene. Le mettevano tutti quelli, perché sono quelle pizze elettriche. Caspa, infatti il marroncino. E marroncina è, cioè sono bianchi, tutti e due. E conviene Marco di saldarla dalla capsula, le aggiungi il filo appena. Sì, vabbè, adesso faccio le cose. Adesso quando ho 5 minuti una guglia, l'apro e lo faccio, alle 25, questo è nuovo, no? Ancora vergine, non ho toccato per niente. Io quando l'ho fatto non funzionava. Poi ho provato, siccome con le BB5 non c'è bisogno di attaccare al baracchino, basta che premi la portante, se vedi la lancetta che va, vuol dire che l'hai messa in posizione giusta. Anzi, non me se non funzionava, ho dovuto invertire il filo. Sì, perché c'è il più e il meno. Perché va elettrico, e va elettrico sulla capsula, no? Certo. Infatti la capsula c'ha il più e il meno, infatti in effetti i fili sono il più segnato qua rosso e dei puntini rossi c'è. Capa cappella, se sei niente già non ti sbagli. Vabbè. Io ho messo quella, dico la verità, quella verde nel mio MBP5, però ce l'avevo, non sapevo manco di averla, ci credi? Ce l'avevo tutte e mezzo a quei microfoni smontati, tutti quei pezzi che ci sono, che mi possono servire, capito? In mezzo lì ce l'avevo. Sì. No, io quella verde ce l'ho nell'MBP4, ce l'ho. Quella l'avevo buscata, sempre lo stesso telefono era, uguale il mio, quando ci ho buttato il mio, quello della SIC. Ma sì, ma già vanno bene, quelli di telefono sono fenomenali, escono bene, poi quando le amplifichi ancora meglio. Sì, sono il mio, infatti adesso come mi voglia lo prendo. E nella piazza, tanto già è facile togliere il coso, non c'è da smontare niente. Adesso le MV5 stai usando? Sì, le MV5 con la 48. E non va bene così, perché la vuoi cambiare? Ma se riesci più forte l'altro, con l'altra capsula. Beh, provala, fai una comparazione una e l'altra. Fatti registrare o ti fai dare una comparazione, vediamo un pochettino che esce meglio, ma cosa che esce bene? Sì, no, sì, esce bene questo non l'ho ancora toccato, da quando l'ho comprato è sempre normale, c'è anche ancora la mia linea dentro. Quello lì ti fa la radiometallica, però a te non te lo fa, solitamente si toglie, si mette o l'ovatta oppure anche il cotone, va bene. Adesso io nell'altro l'ho fatto così, l'ho tolta e ci ho messo il cotone, ci ho messo. giugato di sì. Forse ne fai. Sì. Vai, 5. Sì, vai. Franco. Ah, sempre un Franco, già. Oh, Franco, sì. Sì, sono...